Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, buona domenica, benvenuti a Magazine 24, appuntamento con i settimanali e i mensili italiani e stranieri. Cerchiamo, come sapete, sempre qualche spunto interessante e anche qualche curiosità, e voglio cominciare allora questa mattina proprio da una curiosità. Non so se ve lo siete chiesti, mi rendo conto che la domanda non è proprio di quelle che non facciano prendere sonno, ma bisognerebbe decidere cosa fare delle vuvuzela. Voi vi ricorderete, appena pochi mesi fa sono state vendute durante i mondiali 600.000 di queste trombette. Ora il Sudafrica sta cercando proprio delle idee su come smaltire il suo rumoroso strumento da stadio. Lo leggo appunto su Vanity Fair. Un aiuto arriva da un sito che si chiama vozela.co.za. È un concorso internazionale di idee per riutilizzare appunto le vuvuzela. Chi vince, cioè chi manderà l'idea migliore, potrà incassare 10.000 rand, fanno un poco più di 1.000 euro. Tra le idee più interessanti ci sono già la possibilità di riconvertire la vuvuzela in un lettore MP3, una specie di iPod molto artigianale, e poi anche un fornello portatile, trasformare appunto la vuvuzela in un fornello portatile a energia solare. Insomma, bisogna trovare il modo di reimpiegare queste cose, questi strani strumenti musicali che hanno avuto grande successo, ma un successo, ohimè, molto effimero. E questa premessa ci serve per dire che questa settimana, curiosamente o forse non tanto, molti settimanali sono pieni di citazioni dedicate a cantanti, alla musica in qualche modo. Si parla di cantanti di musica, di alcuni cantanti di più in particolare, di altri di meno. Naturalmente, al di là della solerzia degli uffici stampa, delle persone che si occupano delle pubbliche relazioni, è curioso notare come, sfogliando più settimanali, ci si imbatte più o meno sempre nello stesso cantante o nello stesso album. Ad esempio, partiamo da Zucchero. Zucchero è, come sapete, in uscita con un nuovo disco. Il singolo già si sente in giro da tempo, è su diversi settimanali italiani questa settimana. Prendiamo da Famiglia Cristiana, ad esempio, un'intervista di Gigi Vesigna in cui racconta appunto l'ambiente di questo nuovo album, che si chiama Chocabec. Chocabec è un termine dialettale che viene proprio dall'infanzia del cantante, dell'autore, perché Chocabec stava a dire che non c'era niente da mangiare. Quindi a Gadi Chocabec, spiega appunto l'articolo di Gigi Vesigna, la sera qualcosa da mangiare c'era sempre, poi in realtà, però Adelmo è il vero nome di Zucchero, che era un bambino, aspettava invano quei Chocabec che riteneva fossero delle prelibatezze rare. L'espressione è tipicamente reggiana, sta a significare che in tavola non c'è niente, perché significa qualcosa che fa rumore nel becco, quindi agitandosi senza niente da masticare. Questo è l'attacco dell'intervista che trovate a Zucchero su Famiglia Cristiana, e che è tutta centrata appunto sulla memoria. Sulla memoria specialmente dell'infanzia del cantante. Dice che è un altro termine, è poi serve poi a dare il titolo a un'altra canzone, Speaking Frin Boy. Speaking Frin, spiega sempre Vesigna, è un termine dialettale che fa dire al cantante: usava mia nonna per definire un bambino carino ma piuttosto selvatico, che poi ero io. Allora, l'infanzia come tema dominante del nuovo disco di Zucchero, ma l'intervista a Zucchero, in realtà un'intervista a Zucchero c'è anche altrove, per la precisione su Panorama. L'intervistatrice è molto particolare perché è Dori Ghezzi, quindi la ricorderete, la compagna, è stata compagna per molti anni di Fabrizio De André, ed è proprio lei a porre le domande a Zucchero. Naturalmente non poteva mancare tra queste domande anche la prima conoscenza, il primo incontro tra Zucchero e Fabrizio De André. Zucchero ricorda così: il primo incontro con De André fu un party mondano, lui era a disagio, continuava a ripetere: ma io cosa ci faccio qui? E io ho pensato che volevo diventare come lui. Questo appunto Zucchero visto da Panorama, dopo Zucchero visto da Famiglia Cristiana. Ci sono altri Zucchero in giro per i settimanali, però io cambierei cantante e passerei a Vanity Fair, perché Vanity Fair già dalla copertina promette invece Biagio Antonacci. Biagio Antonacci ritratto poi diciamo coperto solo da un disco, ma non voglio lasciare tutto il resto all'immaginazione. In realtà l'intervista a Biagio Antonacci è molto interessante, non tanto per le foto che corredano il servizio, quanto proprio per il suo rapporto con l'età, perché è tutta un'intervista giocata appunto sul suo rapporto con gli anni. Biagio Antonacci in questo momento ha 47 anni e spiega che si allena molto. Il 9 novembre, quindi martedì, compirà 47 anni e si allena molto, sta molto attento al suo fisico ed è abbastanza, come dire, preoccupato di mantenersi in forma. Cerco di allenarmi mezz'ora tutti i giorni, quando sono a Bologna se posso vado in palestra, così dice nell'intervista a Vanity Fair, altrimenti mi esercito a corpo libero a casa. E tra l'altro critica anche gli uomini della sua età, dice: voglio anche invitare gli uomini della mia età a non lamentarsi del fisico, basta poco per tenersi in forma, quei 30 minuti che normalmente si passano su Facebook oppure a fumare, non è mai troppo tardi invece per iniziare a utilizzarli per tenersi in forma. Poi gli chiedono: ma insomma lei se li sente 47 anni? No, di testa, risponde lui, me ne sento 25. Questa alcuni brevi estratti dall'intervista a Biagio Antonacci che trovate su Vanity Fair. Di cantanti e di canzoni e di segnalazioni musicali ce ne sarebbero molte altre naturalmente sui settimanali, anche, ripeto, con una certa enfasi, però io vorrei chiudere questo momento canoro su Paolo Conte. Paolo Conte da 7, che trovate con il Corriere della Sera, da 7 apprendiamo che sta per cominciare la sua tournée. Comincerà dal 9, quindi da martedì comincerà il tour, ma in Italia toccherà soltanto Milano dal 9 al 13 novembre e poi Roma dal 30 di novembre al 4 di dicembre. In realtà il tour di Conte sarà per lo più europeo: Londra, Germania, Olanda, Lisbona, e poi a gennaio approderà a Parigi. Il tour serve anche a promuovere, porta naturalmente in giro per i teatri il nuovo album di Paolo Conte, che sapete si chiama Nelson. In realtà si spiega, appunto, spiega Stefania Olivi su 7, non c'entra niente il famoso ammiraglio, in realtà si tratta del cane di Paolo Conte, che è morto un paio d'anni fa ed era così l'unica concessione autobiografica, spiega Olivi, del nostro per il suo pastore francese che viene definito di bellezza stratosferica e superlativa. Avevo detto che avrei finito con i cantanti, ma in realtà ne ho ancora uno, perché sul venerdì di Repubblica, tanto per continuare questa serie di iniziative appunto di sostegno ai dischi di musicisti più e meno noti, il venerdì propone una intervista al leader dei Marlene Kunz. L'intervista è di Andrea Morandi. Perché? Perché i Marlene Kunz, anche loro sono pronti a uscire con un nuovo disco, uscirà, ci informa Andrea Morandi, al 23 di novembre, si chiamerà Ricoveri Virtuali e Sexy Solitudini. Il leader è Cristiano Godano, che appunto in una intervista ci va giù abbastanza pesante, sia con le nuove tecnologie sia con la musica in televisione. Vi segnalo tra l'altro una domanda di Morandi: ma quindi invece che migliorare la qualità della vita, internet ce la sta peggiorando? E, sapendo che a rispondere è una persona giovane, non ci si aspetterebbe questo tipo di risposta che vi vado a leggere. Dice: io registro solo quello che sta accadendo, non siamo più capaci di stare in disparte, la lettura è diventata un esercizio faticoso, il multitasking, faccio una piccola parentesi, vuol dire quel doversi o potersi o sapersi occupare di più cose contemporaneamente, il multitasking sta orizzontalizzando tutto. Per noi che veniamo da una generazione verticale, quella che vedeva nell'approfondimento un'attitudine formativa, questo è spiazzante, ma io temo che questa superficialità si trasformi in piattume, soprattutto culturale. E la musica, dice, continua a perdere fascino, dice Cristiano Godano. Perché, gli chiede, perché c'è troppa roba in giro, perché la gente scarica tonnellate di dischi, ma paradossalmente non ascolta più nulla. La rete, e quindi l'amara conclusione di Godano, doveva essere uno spazio democratico, invece è un luogo dove spesso si dà il peggio di sé. Non sono un retrogrado, io uso e abuso di internet come tutti, ma questo non mi impedisce di vederne i difetti. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24, abbiamo parlato a lungo di musica contemporanea, anche del cattivo giudizio che alcuni musicisti più giovani danno degli strumenti tecnologici. Allora facciamo magari un passo indietro, un tuffo all'indietro, riprendiamo storica di novembre, perché c'è, sempre per restare in questioni musicali, la storia dell'organo a canne, quindi l'organo che potete vedere abitualmente in chiesa, è uno strumento molto molto antico, perfezionato via via nei secoli. La storia di questo strumento viene raccontata da Giovanni Siniscalchi e Massimo Bozzo su Storica di questa settimana. Io vi segnalo soltanto che non nacque come uno strumento sacro, noi oggi siamo abituati ad associare questo tipo di organo proprio alla musica sacra, ma in realtà era uno strumento profano, anzi impiegò molto tempo a entrare nel mondo ecclesiastico, di cui poi sarebbe divenuto la massima espressione musicale. Si pensa che l'organo a canne sia stato inventato da Ctesibio di Alessandria nel III secolo a.C., un organo ad acqua, un flauto idrico era il suo nome in greco, nel quale l'aria veniva inviata alle circa sette canne attraverso un complesso sistema di pompe appunto ad acqua. Lo strumento poi passò a Roma, lo utilizzavano per la musica nelle feste pagane. La prima testimonianza di un organo ad aria, basato cioè sul principio che è rimasto poi inalterato fino ad oggi, quello che fa funzionare ancora gli organi attuali, si trova su un obelisco, l'obelisco che fu eretto dopo la morte di Teodosio il Grande, siamo nel 393 d.C., a Bisanzio, la città che poi divenne il centro più importante della costruzione degli organi. Infatti proprio da Bisanzio questo strumento cominciò a diffondersi in Europa. Nell'VIII secolo l'imperatore Costantino V ne donò uno al re dei Franchi, Pipino il Breve, famoso, lo abbiamo anche studiato a scuola, quale l'organo voleva suggellare il potere e la regalità, quindi suggellare l'amicizia tra i due sovrani. Questo gesto, in realtà, questo dono, fu fondamentale perché così l'organo cominciò a mettere radici alla corte dei Franchi e poi Carlo Magno, noto il figlio notissimo di Pipino il Breve, ne fece costruire, chiedo scusa, alcuni esemplari proprio ad Aquisgrana. Perse così il suo carattere di strumento laico, di strumento per le feste pagane, cominciò a entrare nel mondo religioso e da lì in poi non abbandonò più, diciamo, la musica sacra. L'ultima cosa che vi segnalo da questa lunga e interessante storia, poi vi rimando, la trovate su Storica di questo mese, è che all'inizio, cioè in questo periodo, nell'VIII, IX secolo d.C., l'organo era di dimensioni molto ridotte e poteva essere portato a tracolla, si chiamava anche portativo, appunto, il musicista suonava su una piccola tastiera che a volte era anche sostituita solo da delle leve, e con una mano, con l'altra mano azionava il mantice e così cambiava, creava appunto il suono tipico dell'organo. Poi via via diventò più ampio. La fioritura, diciamo la definitiva consacrazione, si deve anche alla riforma protestante, perché nelle chiese protestanti non sono ammessi elementi decorativi tranne appunto l'organo, e questo dimostra la grande cura e la grande passione che potete vedere nelle chiese protestanti per la fattura appunto degli organi a canne, che sono l'unico elemento di abbellimento che viene consentito con questo sfarzo, con questo sfoggio nelle chiese. La storia dell'organo a canne su Storica di questo mese. Cambiamo decisamente argomento, torniamo su Wired di novembre, quindi un altro mensile, ma per parlare non più di strumenti del passato o anche del presente, ma per parlare di uno strumento estremamente moderno e che, ahimè, non serve a produrre musica. Si tratta della metropolitana, perché nella Wired ha sempre una rubrica tutti i mesi dedicata a grandi numeri. È molto divertente perché talvolta cogliere appunto alcuni numeri ci dà l'idea della ampiezza di un fenomeno, della sua importanza. Questa volta si occupa del metrò. Il metrò riparte a Oriente, il titolo della pagina. Si apprende da lì che la prima metropolitana è nata a Londra 147 anni fa, ma che oggi è l'Asia che ha il record di estensione di trasporto, ed è solo l'inizio, perché poi è lì, avvisa Alberto Forni, che le megalopoli stanno crescendo più rapide. Allora, ad esempio, a Shanghai il metro complessivamente ha una lunghezza di 420 km ed è la metropolitana in maggiore espansione. C'è una classifica sulle persone che vengono trasportate ogni giorno. Al primo posto la metropolitana di Tokyo, sono 8 milioni 700 mila persone tutti i giorni, poi c'è Mosca, 6 milioni e mezzo di persone, poi Seul, e per trovare Roma e Milano bisogna andare al 31esimo e al 32esimo posto. Per darvi un'idea, Londra, che sta al decimo, trasporta nemmeno 3 milioni di persone. C'è anche una grafica che ricorda le metropolitane italiane, la loro inaugurazione, il loro percorso, il numero delle stazioni. La più estesa per numero di stazioni è quella di Milano, ha 88 stazioni, poi segue quella di Roma con 49 e poi a seguire ancora, ma scendendo, quella di Napoli con 30 stazioni. La più lunga è sempre quella di Milano, 75 km, poco meno di 75 km di lunghezza. Appunto, abbiamo detto prima, Shanghai, che è il record, che ha il record di lunghezza nel mondo, sono 420 km. Complessivamente, avvisa sempre Wired, sono 177 le città in tutto il mondo che dispongono di una rete metropolitana. In alcune città poi queste linee rimangono aperte anche 24 ore al giorno e 7 giorni su 7. Questo succede ad esempio a Chicago, succede a Copenaghen, succede a Londra, New York e anche a Filadelfia. E allora chiudiamo tornando, per così dire, nel salotto di casa. Da domani comincia, e ce lo ricordano diversi settimanali, la trasmissione Vieni via con me. Se ne è parlato molto, ci sono state anche moltissime polemiche, trasmissione di Fabio Fazio con Roberto Saviano. Noi ci affidiamo a uno dei settimanali più autorevoli del settore, Sorrisi e Canzoni, dove appunto si ricorda questo appuntamento da domani alle 21.05, Fabio Fazio e Roberto Saviano, che cercano di appunto raccontare l'Italia nel bene e nel male, questo il titolo dell'articolo. Tra l'altro si segnala che ci sarà come ospite della prima puntata Roberto Benigni, uno storico uomo record dell'Auditel, perché sempre quando è apparso in televisione ha fatto numeri da record. C'è una tabella proprio su Sorrisi e Canzoni in cui segnala i milioni di spettatori che seguono Benigni nelle sue invero non frequenti apparizioni televisive. E con questa segnalazione si conclude Magazine 24. Ringrazio Paolo Corleoni questa mattina in regia, grazie anche ad Anita Panizza che mi ha aiutato a preparare questo programma. Se volete riascoltarci, se volete informazioni, volete scrivere anche a Magazine 24 o ad altri programmi di Radio 24, potete consultare il nostro sito www.radio24.it. Magazine 24 vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buona domenica a tutti.